Letture di Radio 24. In un piccolo episodio raccontato da Giuseppe Puglisi sul magazine del Corriere della Sera è racchiuso l'abisso che separa l'Italia di chi si guadagna da vivere onestamente e quella che vive tra illegalità e privilegi. Un supermercato della periferia est romana, una commessa indaffarata a riordinare prima della chiusura, un cliente frettoloso che cerca un utensile. Chiede aiuto alla commessa, la quale lo tira fuori dallo scaffale e con una punta di imbarazzo dice: «Costa molto, ma se non dovesse andare bene, lo riporti insieme allo scontrino, glielo cambieremo». Il cliente alla cassa legge preoccupato il prezzo dell'utensile: 7 euro. Molto. Non può non pensare al costo del pasto alla Camera o al Senato e ancora una volta registrare non tanto il distacco in Italia tra paese reale e paese politico, ma soprattutto la assoluta incommensurabilità tra la percezione del valore dell'euro e quindi del costo della vita di una persona qualunque e quella di uno del palazzo o anche delle caste fuori da esso. È sempre più largo il distacco tra chi si guadagna la vita onestamente, spesso con sacrifici enormi e difficoltà vere, e il paese dell'illegalità diffusa e dei privilegi legalizzanti. Il contribuente onesto non si chiede più il perché della sua condizione, ma solo come andare avanti. Gli altri non si occupano minimamente dei disagi del paese, anzi usano ogni mezzo per continuare a mantenere i privilegi, speculando su connivenze talvolta criminose. Ancora prima e più che ai politici, vorrei raccontare l'episodio del supermercato agli evasori e ai calciatori. Ai primi vorrei sottolineare il richiamo della commessa alla necessità dello scontrino. A molti dei secondi vorrei ricordare le loro origini, nelle borgate o nelle periferie delle metropoli, quando inseguendo un pallone cercavano fortuna e sognavano una vita migliore. Anche per loro, forse, in quel tempo, quell'utensile per 7 euro sarebbe costato molto. Oggi, ignobilmente smemorati, non vogliono pagare il contributo di solidarietà, magari verso quella commessa o, chissà, verso coloro che nella loro vecchia borgata continuano a sognare e sperare, aspettando la domenica per correre con la fantasia, insieme ai loro vecchi amici, dietro un pallone di sogni. Chi potrebbe stupirsi se a fine settimana quanti sognano a occhi aperti dietro a un pallone davanti alla TV lo faranno a televisore spento? Come temo, non ci sarà da stupirsi se, disgustati da questi politici, molti contribuenti onesti saranno tentati di spegnere il loro interruttore elettorale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovanni Puglisi, L'Italia ha due moralità, dal magazine 7 del 25 agosto. È una testa calda, calmare i bollenti spiriti. Sembra esistere un legame tra violenza e caldo, almeno a livello linguistico. Ma la scienza fa ancora un po' fatica a spiegarlo, questo legame. Ci hanno provato gli psicologi Ellen Cohn e James Rotton dell'Università della Florida, analizzando l'andamento dei reati commessi in 2 anni a Minneapolis, suddivisi per giorno, mese, ora e clima. Conclusione: la violenza aumenta con l'aumento della temperatura, ma solo fino a un certo punto, perché oltre i 27 gradi il tasso di aggressività cala. Come mai? Intanto, se fa troppo caldo, molti preferiscono evitare ogni problema. Inoltre, se si esce per il caldo, i crimini aumentano per il fatto che c'è più gente in giro, ma oltre una certa temperatura ci si chiude tutti in casa. Secondo Craig Anderson, Università dell'Iowa, il limite della temperatura è ininfluente. Il calore provoca mutamenti nel corpo, sudorazione, cambia il metabolismo, aumenta il testosterone, che alterano le normali reazioni. Anche un segnale neutrale viene percepito come ostile e spinge alla violenza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Più fa caldo, più sei violento, da Vanity Fair del 18 agosto. Letture di Radio 24. Il popolare marchio Twinings ha deciso di cambiare la formula del suo tè più popolare, l'Earl Grey. Gli inglesi si ribellano e il commento più diffuso è che il nuovo tè sa di detersivo per i piatti. Ma in Inghilterra, sottolinea Piero Ottone, il cambiamento delle abitudini era già in atto da tempo. Non posso giudicare questo nuovo tipo di tè, il tradizionale Earl Grey con l'articolo davanti, The Earl Grey, perché non l'ho provato. Ma apprendo che suscita grandi proteste in Inghilterra e non nascondo la mia diffidenza. È una storia lunga, quella del tè, da quando diventò, fra gli inglesi, bevanda nazionale. Si imponevano a chi lo serviva regole precise. Scaldare la teiera, calarvi preziose foglioline, un cucchiaino per ogni persona più un cucchiaino per la comunità, poi si versava l'acqua non ancora bollente, ma prossima all'ebollizione. Qualche goccia di latte, freddo si capisce, e dopo aver versato il tè nelle tazze non prima, infine si servivano gli scones, friabili biscottini che non starò a descrivere. Intender non lo può chi non lo prova. Alternativa erano i crumpets, focaccine bucherellate su cui si spalmava burro e miele. Non è vero che tutti gli inglesi bevessero tè al pomeriggio, con scones o crumpets. Qualcuno dichiarava altezzosamente che il tè pomeridiano con pasticcini era un'offesa per il lunch, pasto del mezzogiorno, e una minaccia per il dinner, il pasto serale. Ma l'afternoon tea era pur sempre una grande invenzione. Non vivo in Inghilterra da tanti anni fa, non so che cosa sia rimasto delle antiche usanze, ma so che cosa succede di qua dalla Manica quando ordino un tè. Mi piazzano davanti un pentolino di acqua calda e abominevoli bustine che si dovrebbero immergere nell'acqua, carta compresa. Anche The Earl Grey sarà servito in bustine di carta, immagino. Vogliamo optare per un buon caffè? Già ho visto nelle visite più recenti che a Londra i coffee shops sono più numerosi dei tea shops. Insomma, l'Inghilterra non è più quella. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Piero Ottone, ma il tradimento è già nella bustina, dalla Repubblica del 29 agosto. Mentre Cesare Battisti si diverte nelle spiagge brasiliane e si prepara a scrivere un libro, in Italia un saggio di Giuliano Turone ripercorre le varie fasi del processo al terrorista pluriomicida. È un vero peccato che questo libro di Giuliano Turone, Il caso Battisti, compaia quando l'affare si è ormai chiuso. Non avrebbe cambiato nulla, ma si sarebbe aggiunta una voce moderata e soprattutto documentata. Non il militante, non il portatore di un lutto, non l'intellettuale engagé e narciso, ma il sereno tecnico del processo che umilmente si chiude negli archivi del Tribunale di Milano e compulsa i 53 tremendi faldoni dei processi per rispondere alla domanda più semplice: Battisti, un terrorista omicida o un perseguitato politico? Sarebbe banale anticipare qui la risposta con un semplicistico sì e no, perché si tratta di un'attentissima analisi di prove e testimonianze in grado di smontare qualunque sospetto di teorema. E Turone, da questo punto di vista, è una garanzia assoluta. Per anni giudice istruttore a Milano insieme a Gherardo Colombo ha scoperto la P2 ed è dunque abituato ad annusare e disinnescare i complotti. Nell'inchiesta uno solo è il pentito, Pietro Mutti, ma quasi tutti i componenti della banda si sono dissociati rilasciando ampie e convergenti confessioni che hanno permesso di ricostruire i 4 omicidi dei PAC, proletari armati per il comunismo, e il ruolo di ciascuno, a cominciare da Battisti, non capo ma solerte militante e per 2 volte killer. Le corti hanno condannato, la Cassazione ha confermato. E dunque perché una vicenda processuale così chiara e una serie di dibattimenti pacati, dialoganti e collaborativi sono diventati un caso? La risposta è che non si discuteva di fatti storici, ma di miti, leggende, pregiudizi. Ne accenniamo qualcuno: che Battisti era stato condannato per 2 omicidi avvenuti contemporaneamente a Mestre e Milano. Vero, ma nell'uno come esecutore materiale, nell'altro per concorso morale. Che il concorso morale non esiste nell'ordinamento francese e brasiliano. Falso. C'è in tutti e due. che le accuse dei pentiti ottenute in cambio di sconti di pena non sono valide, ma la Francia ha usato lo stesso metodo. I membri di Action Directe, l'unico gruppo terroristico francese, sono stati condannati sulla parola della pentita Frédérique Germain, ampiamente ricompensata. Che in Italia, durante gli anni di piombo, sono stati istituiti tribunali militari contro i militanti dell'estrema sinistra. Falso, ovviamente, ma non solo. Mentre in Italia i terroristi sono stati giudicati da corti ordinarie, in Francia vennero istituiti una procura e un tribunale speciale per i reati di terrorismo. Com'è possibile che una simile congerie di sciocchezze abbia prodotto il caso Battisti? Se da una parte la magistratura francese ha smontato punto per punto il castello di carte false, l'estradizione è stata concessa dai giudici in tutti i gradi di giudizio e persino la Corte europea, solitamente così severa con la giustizia italiana, ha riconosciuto la regolarità dei processi, dall'altro si è arrivati al culmine del grottesco quando il borioso sindaco socialista di Parigi, Bertrand Delanoë, ha conferito a Battisti la cittadinanza onoraria e il surreale ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro ha accordato al terrorista lo statuto di rifugiato politico. Ma perché? Una delle spiegazioni l'ha data in un'intervista a Repubblica Fred Varga, oggi la più nota giallista francese, che di Battisti è stata molto più che la musa ispiratrice, oltre che la finanziatrice della fuga in Brasile e della latitanza. La signora, parlando del suo nuovo giallo, che nulla ha a che fare con Battisti, del quale la signora non vuole più parlare, ha teorizzato il successo del genere favole per adulti. E quale copione era più perfetto della vita stessa di Battisti? Un criminale diventato terrorista, belloccio e maledetto, evaso da un supercarcere, in fuga in Messico, approdato a Parigi, meta di tutti i perseguitati del mondo, che diventa scrittore di gialli a sua volta maledetti e di scarso successo, ma conserva la sua carica di autenticità proletaria, sbarcando il lunario come portinaio in un vecchio stabile dell'undicesimo arrondissement. Una vera favola che la Varga ha trasformato in caso attraverso il pamphlet di denuncia La vérité sur Cesare Battisti, trasfigurazione militante di Dernière Cartouche, la fiction in cui l'ex terrorista divenuto scrittore aveva rielaborato la storia dei PAC. Un giallone tenebroso che termina con la sua fuga dall'Italia, inseguito dai rastrellamenti dei militari che arrestano 60.000 attivisti di sinistra. Una favola per adulti, molto amara per l'Italia, che ha visto la sua storia e il suo dolore trasformati in una caricatura. Un paese parafascista, in cui gli estremisti di destra mettono bombe sempre impuniti, mentre polizie e carabinieri si accaniscono solo contro i giovani resistenti di sinistra. Una caricatura in cui tutti si perdono, Battisti compreso, visto che alla fine è arrivato a parodiare se stesso, strillando contro i giudici comunisti come un Berlusconi qualunque. L'ultimo paradosso è relativo alla cosiddetta dottrina Mitterrand, da sempre usata dai rifugiati come scudo contro ogni richiesta di estradizione. Ebbene, come spiega Jean Musitelli, che fu consigliere del presidente socialista all'Eliseo in un volume curato da Marc Lazare, Il libro degli anni di piombo, nel respingere il ricorso di Battisti contro la sentenza della Corte d'Appello di Parigi, favorevole all'estradizione, il Consiglio di Stato ha motivato il no proprio con la dottrina Mitterrand, non applicabile agli individui riconosciuti colpevoli dei delitti di sangue. In altre parole, Battisti e i suoi difensori, principi del Foro di Parigi pagati da Fred Varga, non gli avvocati militanti che l'avevano difeso in Italia, erano così immersi nella loro favola da credere alla versione mitizzata della dottrina Mitterrand. Purtroppo ci ha creduto per anni anche l'Italia, che ha sempre considerato quella dottrina una barriera alle estradizioni, ed era invece la leva con la quale farsi valere. In conclusione, le buone ragioni giuridiche italiane e persino dei suoi processi condotti, diciamo così, in emergenza, sono dunque state ricostruite a ogni livello, compresa la Corte Suprema brasiliana. Ciò che non è stato riconosciuto è la legittimità democratica della storia italiana. Il governo, tutti i governi degli ultimi 20 anni, non hanno fatto diventare il caso un primario interesse nazionale. Il dossier Battisti è rimasto a lungo dimenticato. Ripescarlo dopo tanti anni ha trasmesso ancora una volta l'idea che nel nostro paese la giustizia viene usata per regolare i conti. Ed è così che l'Italia ha perso la partita con se stessa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cesare Martinetti, Caso Battisti, una favola per adulti, dalla Stampa del 9 agosto.